Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Braccio di ferro con la Francia, l'Italia prepara il permesso di soggiorno per gli immigrati nell'area Schengen. Parigi detta ai prefetti regole rigide per gli ingressi. Bagarre alla Camera per un cartello dell'Italia dei Valori, Maroni assassino e ora riparte l'ostruzionismo sul processo breve. Libia misurata sotto assedio, la NATO chiede una tregua per curare i feriti. Cinema, 13 le candidature per Noi credevamo di Mario Martone ai David di Donatello. Buongiorno dalla redazione, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Da una parte il processo breve, dall'altra la questione immigrazione, una giornata di lavori ancora intensi e di clima ancora decisamente di scontro anche oggi dunque alla Camera. Alle 13.30, quando è prevista una pausa, si riunirà il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo c'è il permesso di soggiorno per gli immigrati arrivati a Lampedusa, con i contrasti, come sentivate dai titoli, ancora duri con l'Europa e il giorno dopo il naufragio nel canale di Sicilia. Allora, insomma, cominciamo da qui, cominciamo da cosa è accaduto questa mattina nell'aula di Montecitorio con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, un permesso di soggiorno temporaneo ai migranti che vogliono andare in un altro paese europeo e sono la stragrande maggioranza, così il ministro Maroni nella sua doppia informativa. La Camera e il Senato ribadisce l'intenzione del governo di andare avanti su questa strada, tra poco il decreto in Consiglio dei Ministri, ma sentiamo lo stesso Maroni. Con l'approvazione del DPCM che firmerà oggi il Presidente del Consiglio verrà dato a coloro che sono in Italia, ma con l'esclusione di alcune categorie di soggetti, un permesso di soggiorno temporaneo per protezione umanitaria che consentirà loro di girare in tutti i paesi dell'area Schengen. Deve esserci una iniziativa comune tra Italia e Francia, dice poi Maroni, secondo il quale da Parigi c'è invece un atteggiamento di ostilità. Il ministro annuncia poi che lunedì volerà a Bruxelles per chiedere di attivare la direttiva comunitaria sulla redistribuzione dei migranti su tutto il territorio europeo. Infine, il punto sugli sbarchi: dall'inizio dell'anno sono stati 390, con oltre 25.000 persone, un flusso che aumenterà. Un intervento il suo che alla Camera finisce in bagarre. Il deputato dell'Italia dei Valori Zazzer espone un cartello con scritto Maroni assassino. Seguono urla, polemiche, interviene il presidente della Camera Fini che lo richiama. Sentiamo Fini. Onorevole, la prego di togliere immediatamente quel cartello. Onorevole Zazzera, la Presidenza sottoporrà al Collegio dei Questori l'esame del suo comportamento, che riteniamo francamente inqualificabile. Prego i colleghi di consentire di proseguire con i nostri lavori. E alla fine Di Pietro si scusa, così anche lo stesso Zazzera, mentre il PD si dissocia. Da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Arriverà dunque nel primo pomeriggio il decreto per il permesso agli immigrati. Ma cosa consentirà? Come potranno muoversi in Europa? Allora, sempre Alessandra Schepisi ha sentito Carolina Kotova, portavoce della Commissione europea. Io avrei due commenti da fare dal punto di vista della Commissione europea. Innanzitutto il primo commento è che per quanto riguarda i permessi di soggiorno, di residenza, è una competenza nazionale, quindi di singoli Stati membri, non una competenza europea. Secondo commento è che dei permessi di soggiorno, determinati a legge nazionale, sono di differenti tipi, quindi dipende un po' la tipologia di permesso, e di nuovo qua devo ripetere che è una competenza nazionale. E il terzo commento, forse più importante dal punto di vista di politico, siccome viviamo in un'Europa aperta, senza confini interni, perché lo spazio Schengen è uno dei più grandi risultati del processo di integrazione europea, è chiaro che una decisione nazionale di questo tipo avrà un impatto su altri paesi, quindi a noi come Commissione ci sembra fondamentale che ci sia un dialogo tra gli Stati membri a qualsiasi momento si intenda di fare, si procedere a delle legalizzazioni o delle decisioni che possono impattare sugli altri, perché c'è una responsabilità comune a trattare questa importante questione. Uno Stato comunque può mettere dei paletti che di fatto poi rendono possibile l'ingresso? Certo, è, come ho detto, una competenza nazionale. Cosa questa che ha fatto la Francia, che in un certo senso prepara le barricate con l'Italia. Parigi non vuole subire un'ondata di immigrazione tunisina dall'Italia e rispedirà ai candidati al soggiorno in Francia che non soddisfino condizioni adatte. Ha parlato così poco fa il ministro dell'interno francese. Allora andiamo a Parigi da Marco Mussanè. Buongiorno. Buongiorno Marco. Dunque, l'Italia prepara questi permessi di soggiorno, la Francia dice da noi non entreranno. Sì, la posizione è sostanzialmente questa. Dal punto di vista concreto, tecnico, diciamo, non cambia molto, cioè nel senso che la circolare che ha emanato il Ministero dell'Interno nella notte, indirizzata appunto ai prefetti e alle autorità di polizia, si limita a ricordare norme che esistono già, cioè non è che vengono aggiunte delle norme particolari, ma certo l'atteggiamento, diciamo, politico e quindi il messaggio che viene trasferito alle autorità sul territorio è di esercitare dei controlli molto più capillari e molto più attenti e molto più rigidi, in modo tale da evitare che ci siano degli ingressi non voluti e non desiderati in Francia. E Marco, sappiamo tutti che poi quando si tratta di controlli alle frontiere dipende anche come vengono fatti, quindi i controlli pignoli alla frontiera di Ventimiglia soprattutto fanno immaginare che nei prossimi giorni i tunisini che passeranno di lì saranno veramente passati al vaglio, quindi anche con lunghe code e lunghe procedure. Par di capire. Non c'è alcun dubbio. Cioè, è come, vuol dire banalmente, è come quando, non so, vi ricordate a suo tempo gli uomini radar facevano il cosiddetto sciopero bianco, cioè applicavano in modo estremamente pignolo e rigoroso le normative, gli aerei praticamente non partivano più. Controllo può durare 20 secondi o un quarto d'ora, è diverso. Esatto, soprattutto dipende come è fatto. Però insomma, l'obiettivo è evidente, come ha detto chiaramente Gian, non entreranno. Poi possiamo elencare il merito della circolare per cercare di capire quali strumenti verranno utilizzati, però, come dire, l'atteggiamento è molto chiaro, è molto duro. Ed è ovviamente uno scontro anche politico. Grazie a Marco Mussanè da Parigi, torneremo naturalmente a collegarci con lui in altre edizioni del nostro giornale. Intanto però andiamo anche nel canale di Sicilia, dove sono riprese le ricerche dopo il naufragio di ieri. Andrea Viali. Anna, aerei, elicotteri e motovedette all'alba hanno ripreso le ricerche nella zona dove è avvenuto il naufragio. Le operazioni sono ostacolate dalle cattive condizioni del mare, ma si spera comunque di trovare ancora qualcuno in vita. I dispersi, lo ricordiamo, sono circa 250, in gran parte si tratta di profughi somali ed eritrei, e fra loro ci sono anche molte donne e bambini. Tra poco intanto 50 dei 53 sopravvissuti nel naufragio saranno trasferiti con un ponte aereo da Lampedusa al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Brindisi. E sempre in Puglia, ma nel campo di Manduria, da questa mattina si è invece iniziato a smontare alcune delle tende dopo la decisione di ospitare nella tendopoli non più di 1600 degli immigrati sbarcati negli ultimi giorni a Lampedusa. Per ora è tutto, Anna. Grazie ad Andrea Viali. Voltiamo pagina, dicevamo, della giornata intensa alla Camera. Dopo l'immigrazione in calendario, il processo breve e anche qui con scontro e ostruzionismo. Allora torniamo a Montecitorio, Elisabetta Fiorito. Si riprende nell'aula della Camera il processo breve dopo la seduta di ieri, che si è conclusa poco dopo la mezzanotte e nella quale è iniziato l'esame del testo che contiene, ricordiamo, anche la prescrizione breve per gli incensurati. Si prevede una maratona dovuta all'ostruzionismo dell'opposizione. Ieri ci sono volute 3 ore per approvare il verbale della seduta e il confronto sulla legge è iniziato proprio nella seduta notturna, molto cavillosa. Sono stati stati esaminati, votati e respinti solo 4 degli oltre 200 emendamenti depositati alla Camera. Da parte di tutti i gruppi parlamentari d'opposizione si prende la parola, ma anche all'interno della maggioranza Nuova Italia, la corrente che fa capo al sindaco di Roma Gianni Alemanno, sarebbe contraria al provvedimento e tenderebbe a non partecipare alle votazioni. Anche il CSM, lo ricordiamo, ha criticato il processo breve, definendolo di fatto un'amnistia. La situazione poi è stata esacerbata anche da quanto è accaduto ieri al Senato, dove la Commissione Giustizia ha approvato la norma allunga processi che prevede lunghe liste di testimoni per la difesa. Per l'opposizione è un modo per far saltare il processo Mills. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Ricordiamo, alle 13.30 prevista la pausa dell'udienza a Montecitorio, ci sarà il Consiglio dei Ministri sull'immigrazione. Andiamo in Libia, dove emergenza umanitaria, la città di Misurata è ormai sotto le bombe da 40 giorni. La NATO ha chiesto anche un cessate il fuoco per poter intervenire e curare i feriti. Sentiamo allora cosa sta succedendo. In Libia c'è Cristiano Tinazzi, buongiorno. Sì, buongiorno. Dicevamo, Misurata ormai sotto assedio, e questa mattina sono ripresi anche i raid da Tripoli. Sì, stamattina si sono sentite a distanza sempre delle forze di esplosione, il rumore dei caccia bombardieri della coalizione in cielo, anche se non erano chiaramente visibili, si sentiva solo il rumore della scia dei caccia. A Misurata ormai si sa, si combatte da settimane, nonostante il cessate il fuoco, che vengono violati da entrambe le parti. Si parla ormai di emergenza umanitaria anche per quanto riguarda il mancato controllo, visto che il trattato con l'Italia è definitivamente chiuso sull'immigrazione clandestina. Notizia di ieri, che è stata confermata anche nei giorni scorsi dal vescovo di Tripoli Martinelli, che sono stati già ritrovati 10 corpi di alcuni i migranti che sono affogati nelle acque libiche, due sono eritrei, li hanno riconosciuti degli eritrei qui di Tripoli, e si parla anche di altri morti che sarebbero negli ospedali di Tripoli, decine e decine che sono ancora negli ospedali, che sono in attesa di essere riconosciuti da amici o persone che possono dar loro un'identità. Una situazione che sta diventando sempre più grave, stanno rientrando dalla Tunisia anche centinaia di persone, perché è molto più facile adesso partire da qui, con 2.000 euro si riesce a partire dalla costa, avendo anche tutto il viaggio pagato dalla zona di provenienza, quindi sta diventando un business sempre più grande questo, e non si fermerà sicuramente. E grazie anche a Cristiano Tinazzi da Tripoli. C'è un'altra emergenza umanitaria, un'altra guerra in queste ore, quella in Costa d'Avorio, dove però una svolta potrebbe essere vicina. Gigi Donelli. Sì, Anna, in realtà la crisi nella Costa d'Avorio, che purtroppo perdura ormai da un decennio, con una grande pausa che si era poi creata appunto lo scorso anno, è eternamente vicina alla fine. Che cosa succede? Ancora una volta continua questo famoso attacco finale delle forze del presidente riconosciuto Ouattara contro il presidente che non lascia il potere nonostante abbia perso le elezioni di novembre, Laurent Gbagbo. Ma poiché l'ordine molto chiaro è stato dato alle truppe di prendere Laurent Gbagbo vivo, beh, Gbagbo sembra non avere nessuna intenzione di cedere. Morale, è arroccato all'interno di un palazzo presidenziale, all'interno del cosiddetto quartiere chic di Abidjan, cioè Cocody, e le ore passano e intanto la città vede, e quello è vero, morire persone, vede una città di oltre 3 milioni di abitanti letteralmente che viene travolta dallo sfinimento, e vede una situazione che per i francesi si dimostra sempre molto difficile da gestire. Insomma, la spinta decisiva che Parigi ha imposto alla vicenda per adesso non ha ancora portato a una soluzione. La speranza è che possa farlo in poche ore. Le 13:18, le notizie di oggi di GR24, braccio di ferro con la Francia, l'Italia prepara il permesso di soggiorno per gli immigrati nell'area Schengen, a Parigi respingeremo anche con il visto di Roma. Bagarre alla Camera per un cartello dell'Italia dei Valori, Maroni assassino, ora riparte l'ostruzionismo sul processo breve. Generali e ormai toto nomine, cinema, 13 candidature per Noi credevamo di Mario Martone ai David di Donatello. È atteso alle 13.45 l'aumento dei tassi da parte della BCE, non accadeva dal maggio del 2009 che intervenisse la Banca Centrale Europea. L'aumento previsto è dello 0,25%, naturalmente ve lo diremo non appena la decisione sarà ufficiale. Ora però parliamo di un'altra questione che ha investito il settore bancario italiano, vale a dire il dopo Geronzi alle generali. Quali scenari si prospettano? Quali battaglie soprattutto si nascondono dietro tutto questo? Io saluto qui in studio con me Riccardo Sabatini. Salve. Allora, dicevamo, cosa c'è dietro tutta questa partita e cosa si prospetta per il dopo? Beh, cosa c'è l'abbiamo visto ieri, nel senso che con le dimissioni di Geronzi è venuto allo scoperto lo scontro al vertice delle generali tra il presidente e i manager operativi, dietro i quali però si è visto c'era la gran parte del consiglio di amministrazione. Quello che si prospetta nelle prossime ore con la convocazione di un nuovo consiglio di amministrazione è invece la sostituzione di Geronzi con un nuovo presidente. Allora, c'è appunto il toto nomine a cui tu ti riferivi nel presentare il servizio, che vede in pole position, diciamo, Galateri, ex presidente di Mediobanca e di Telecom, sicuramente un manager molto conosciuto nell'ambiente di Mediobanca e che sicuramente va d'accordo con i manager operativi di Generali. Questo è il punto. L'esperienza di Geronzi ha fatto capire che un presidente deve andare d'accordo con i manager, con chi ha le redini operative di un'azienda, non il contrario. Non è chi decide in un'azienda è il CEO, l'amministratore delegato, e in qualche misura il presidente ha un dovere professionale, diciamo, di condividere un progetto industriale. Poi naturalmente lo deve controllare, però questo è importante. Perché ora è uno scontro tutto e solo interno, secondo te? No, lo scontro che poi si è svolto in queste ore era uno scontro che partiva da Generali, ma che aveva delle ramificazioni che coinvolgevano l'intero assetto dell'industria finanziaria italiana. Di questo conosciamo poco per la verità, perché poi la caratteristica di queste vicende è che non sono esplicite, non sono trasparenti, nessuno ti viene a dire quali sono i suoi progetti, fino a quando questi poi non si verificano e tu te li trovi davanti e li devi soltanto in qualche modo commentare. Si sussurra, perché allora oppure si analizza il fatto che, ad esempio, con l'operazione tentata da Groupama in fondiaria SAI, se fosse andata in porto, Groupama avrebbe aggiunto al suo 5% di quota che detiene in Mediobanca quello di Fonsai, contenuto nella cassaforte di Fonsai. E se si somma a questa percentuale la quota del 5% di Bolloré, grande vicepresidente peraltro di Generali e grande amico di Geronzi, ecco allora che questo raggruppamento francese sarebbe stato il primo azionista di Mediobanca, la quale controlla anche Generali. E pertanto in questa chiave di lettura il raggruppamento francese avrebbe in qualche modo, certo, messo le mani, diciamo così, per usare un termine un po' forte, sulla principale compagnia italiana. E quindi, insomma, questo scontro internazionale con la Francia anche in questo caso ha giocato un ruolo. Allora, grazie nel frattempo a Riccardo Sabatini. Naturalmente c'è da stare a vedere cosa succederà a questo punto nella partita di Generali. Noi voltiamo pagina, invece torniamo ancora una volta all'estero e andiamo in Giappone. La Banca Centrale del Giappone scende in campo per aiutare l'economia del paese a riprendersi. Oggi ha annunciato un programma di prestiti agevolati per l'equivalente di quasi 9 miliardi di euro in favore delle istituzioni finanziarie del Giappone settentrionale, confermando come previsto il target di riferimento sui tassi tra lo 0 e lo 0,1%. La Banca Centrale ha tagliato le stime sull'economia, sostenendo che si trova sotto forti pressioni al ribasso, specialmente sul fronte della produzione. Così ha lasciato intendere che tra qualche settimana potrebbe procedere a ulteriori allentamenti della politica monetaria. Mentre altrove le pressioni rialziste sui tassi aumentano, l'atteggiamento accomodante della banca centrale nipponica contribuisce a indebolire lo yen, sceso ai minimi da 6 mesi sul dollaro e da 11 mesi sull'euro, arrivato a quota 122,5. Dalla centrale di Fukushima, intanto, per un problema che si chiude, se ne apre un altro. Tappata la falla da cui acqua altamente radioattiva si riversava in mare, la TEPCO ha dovuto oggi procedere all'immissione di grandi quantità di azoto nel reattore numero 1, al fine di contenere il rischio di esplosioni, e lo stesso dovrebbe fare per i reattori numero 2 e numero 3. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. La Siria promette riforme. Il presidente siriano Bashar al-Assad ha concesso oggi la cittadinanza ai residenti curdi che abitano nella regione nord-orientale, ma restano altri nodi. Placati non certo pacificamente i moti di piazza, il Parlamento siriano a quanto pare affronterà in maggio il tema delle riforme promesse dal presidente Assad, tra le quali la revoca dello stato di emergenza in vigore dal 1962. Non è chiaro però se del pacchetto faranno parte anche la legge sulla libertà di stampa e quella sul pluralismo politico, che interesserebbero ai cristiani o anche alla minoranza etnica curda assai più di servizi e sussidi. Insomma, se il fronte della protesta è stato tutto sommato trasversale, la risposta del governo non è uguale per tutti. Per i conservatori sunniti, cui non appartengono gli Assad, ma che sono i più numerosi nel paese, è ad esempio arrivata subito la chiusura dell'unica sala da gioco del paese e l'autorizzazione per gli insegnanti a indossare il velo islamico a scuola, bandito con scandalo nel giugno scorso. Concessioni che sembrano voler compiacere i Fratelli Musulmani, potente e internazionale organizzazione islamica a cui Damasco sembra accedere con un islamismo quindi più rigido, come è accaduto del resto in Egitto, dove i fratelli stessi addirittura si sono spaccati per andare più a destra in una formazione che rivendica l'applicazione della Sharia, o come in Tunisia, che ha appena tolto il divieto di apparire con il velo sulle foto delle carte d'identità. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia, andiamo a Monza, dove è polemica per la decisione dell'Istituto Superiore Mapelli, che per le iscrizioni al prossimo anno a parità di requisiti ha deciso di dare priorità agli studenti stranieri. In questo modo, spiega il preside, avremo accesso ai fondi per i corsi intensivi di italiano che ci servono. Ma a protestare è la Lega. Marco Tognini, capogruppo del Carroccio in Consiglio Comunale, lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. La scuola è una scuola che da anni è inserita nel nostro territorio, è una scuola per cui comunque il nostro paese ha speso soldi delle proprie tasse e ovviamente tante risorse nostre, quindi vedere una priorità addirittura a chi arriva da fuori ci sembra iniquo verso chi comunque ci ha messo del suo. Noi abbiamo invitato il nostro consigliere regionale Romeo a scrivere al ministro Gelmini, perché riteniamo che questa cosa possa essere in contrasto con quel famoso tetto proposto dal ministro Gelmini al 30% massimo di iscrizioni di stranieri. E parliamo ora di cinema. Ci sono le candidature per i David di Donatello, Paolo Panceri. Sì, il 13 sembra portare decisamente fortuna a Mario Martone. Infatti, con Noi Credevamo, il film sulla saga dell'Unità d'Italia ottiene ben 13 candidature al David di Donatello 2010-2011, tra queste anche il David Giovani. Secondo nelle preferenze dei 1684 componenti della giuria troviamo Benvenuti al Sud di Luca Miniero, che ha 10 candidature. Seguono La Nostra Vita di Daniele Lucchetti, che ha 8 candidature, a pari merito con Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo. Infine c'è Una Vita Tranquilla di Claudio Cupellini, che ha 8 candidature. Ieri, lo ricordiamo, erano stati invece annunciati i candidati ai migliori cortometraggi e documentari dell'anno. Ed è tutto. Quando all'appello di Garibaldi tutti i suoi figli. E allora, con Noi Credevamo di Mario Martone, 13 candidature Davide di Donatello, lo state sentendo, chiudiamo anche questa edizione di GR24. Grazie a Paolo Panceri, grazie a Fabio Cantadori in regia. Il prossimo notiziario, come sempre, alle 14. Ancora un saluto e una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.